in primo piano. E la politica, con le frasi della seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Schifani, tiene banco. Maggioranza unita o si voti. Schifani evoca le elezioni. Così apre il Corriere della Sera. Ma è poi una carrellata simile. Schifani sfida Fini. Uniti o elezioni. Questa è la Repubblica. La Stampa. Maggioranza unita o si vota. Il Fatto. Il ricatto di Berlusconi. Elezioni anticipate. Fini. Pensioniamo Silvio. Questo Libero. Il Giornale. Berlusconi deciso. Tutti a casa. Insomma, avete visto che le elezioni anticipate sono il grande spettro che aleggia sulla politica. Il Sole 24 Ore apre, dal punto di vista economico, poi lo vedremo, pressing sullo scudo, le entrate, inviano migliaia di lettere, un'indiscrezione molto interessante, ma rimarrei ovviamente sui tanti commenti e le notizie riguardanti la politica. In prima pagina del Sole proprio Stefano Folli, il notista politico del Quotidiano, scrive: elezioni incomprensibili quando manca un casus belli. Insomma, Folli dice: è la seconda carica dello Stato che ha parlato, parole che non vanno prese alla leggera. Certo, c'è da dire che però le due perplessità di Folli sono queste. La prima è che la maggioranza non è in crisi sul programma. Forse c'è un ritardo di agenda, ma insomma non c'è una crisi sul programma. Il secondo motivo per cui le parole di Schifani meritano attenzione ma suscitano sorpresa, scrive più avanti Folli, riguardano la mancata citazione del capo dello Stato. È Napolitano che scioglie le Camere in base alla Costituzione, e il fatto che si rompa il patto tra maggioranza ed elettori non è di per sé una ragione sufficiente per mandare il Paese alle urne. Questo è un tema che infatti è evocato da vari giornali. Il Corriere della Sera parla del clima al Quirinale, no comment, ovviamente la linea del Quirinale, presa di posizione di carattere politico. Marzio Breda sul Corriere dice che c'è un no comment di Napolitano nello staff in trasferta tra Ankara e Smirne in Turchia. La seconda carica dello Stato minaccia il ricorso al voto anticipato esprimendosi come un leader, certo, non si era mai visto. Chiaro che per qualsiasi capo dello Stato, per natura geloso dei poteri affidatigli da Costituzione, scrive Marzio Breda, sentire evocato di continuo lo spettro dello scioglimento delle Camere è una tracimazione della politica in una sfera che non le appartiene. Però silenzio assoluto dal Quirinale. Ma vedendo un po' i giornali, il clima è questo: il Premier verrebbe voglia di dimettersi. Questo sul Corriere della Sera, Francesco Verderami. Verrebbe voglia di dimettersi, a un virgolettato che avrebbe detto ieri salutando Erdogan, il Premier turco. Il silenzio del Premier è riempito dalle parole altrui. Secondo i suoi interlocutori, Berlusconi non vuole il voto anticipato, dice Letta, però una frase che poi è interpretata anche così: non vuole andare alle urne perché significa che ne farebbe a meno, ma non lo esclude. Per la Repubblica invece un virgolettato è quello di Fini. Ormai siamo sempre in retroscena, eh? È un bluff, una minaccia vuota, secondo Repubblica, ma Gianfranco non cerca la rottura. Secondo Fini è una minaccia vuota, poco più di un bluff, ma tant'è. Il silenzio del Quirinale, ma perché ha parlato Schifani? Beh, Libero lo scrive chiaramente: telefonata Cavaliere Schifani, si voti. Nell'articolo di Salvatore Dama si spiega che Schifani e Berlusconi hanno un rapporto tale che è impossibile ipotizzare che i due non si siano sentiti prima che Palazzo Madama diramasse il comunicato in cui si dà voce anche agli umori del governo. Una cosa peraltro totalmente smentita, secondo la Stampa, smentita di Palazzo Chigi. In serata Berlusconi prende le distanze, tutti nel giro che conta, scrive Ugo Magri, danno per certa la telefonata del sommo capo. Il sommo capo sarebbe Berlusconi, che avrebbe detto a Schifani sostanzialmente di questo. Palazzo Chigi però smentisce, lo fa nella maniera più perentoria. Bonaiuti, il portavoce, giudica addirittura offensivo che qualcuno possa immaginare un input dei Berlusconi alla seconda carica dello Stato. Certo che però insomma il clima è questo. Sapete quale sarebbe, secondo Libero, la mossa di Berlusconi? Il jolly del Premier: chiedere dimissioni di massa a tutti i propri parlamentari per tornare alle urne. La tentazione, chiedere ai parlamentari di lasciare l'incarico, sarebbe una scelta senza precedenti, con l'obiettivo di accorpare le elezioni insieme alle regionali di marzo. Anche se il Foglio fa una... lo mette in prima pagina, una sorta di sondaggio così un po' spurio su 78 parlamentari intervistati, li hanno raggiunti, 66 si sono detti decisamente contrari alle elezioni, 7 solo favorevoli, in 5 non sanno e sono indecisi. Soprattutto colpisce il record dei no, secondo il Foglio è leghista. Su 26 senatori leghisti, 16 sono stati raggiunti, 13 di loro hanno detto assolutamente no. Guardate come titola il Riformista: Silvio stacca la spina. Tra l'altro si fa notare la coincidenza curiosa: 2 anni fa proprio nacque dal predellino di Piazza San Babila, della Mercedes di Piazza San Babila a Milano, il PDL. Ebbene, il Riformista dice: un altro predellino, il PDL ha solo 2 anni e sta già morendo. Era proprio il 18 novembre del 2007. Bisogna andare sul Giornale per essere molto espliciti. D'altronde Vittorio Feltri è sempre molto attento, anche politicamente vicino a Berlusconi. Berlusconi deciso, tutti a casa. Questo è il titolo di apertura. Siamo arrivati al dunque, scrive Feltri. Stavolta non è il Giornale a gufare, bensì il presidente del Senato, Schifani. E poi Feltri fa l'ennesimo quotidiano attacco a Fini. Elenca le 12 cose che Fini ha fatto contro Berlusconi: la polemica sull'inno di Mameli con Bossi, la polemica sui decreti legge, sul legge anticrisi, sulla immigrazione, sul testamento biologico, sul lodo Alfano, su Cosentino. Ne leggo solo alcuni. E scrive: e ormai è chiaro che Gianfranco Fini è in contrasto col governo e dice: il presidente della Camera di fatto si è posto fuori dal PDL, avendo spesso assunto posizioni ostili al partito cui egli formalmente ancora appartiene. Sostanzialmente, dice Feltri, altro che Bersani, il vero capo dell'opposizione è Fini. E a lei, questo è il clima, insomma. Si parla di elezioni anticipate, mentre ci sono vari articoli di politica su quello che sarà appunto il 5 dicembre, anche il nostro sondaggio, il No Berlusconi Day, partito dalla rete, under 30 e senza partito, la rivolta è nata sul web, leggo da Repubblica, stufi di essere ostaggi. Ci sono delle interviste a coloro che hanno lanciato questa iniziativa, tutti in piazza Roma, poi ci hanno messo un po' il cappello anche qualche partito, l'Italia dei Valori, i comunisti, rifondazioni comunista. Ci sono, c'è da dire che è partito appunto la controffensiva, il sì Berlusconi Day, tanto che il Fatto titola guerra sul Nobi Day. La guerra cos'è? Quella tra il PD e l'Italia dei Valori, perché il PD, come ieri ricordava Iena sulla Stampa, non andrà, ma anche sì, nel senso che andranno un po' in ordine sparso quelli del PD. Di Pietro dice: il PD venga, e Bersani risponde no. Bersani, Italia dei Valori, lite sul corteo, nessuno mi tiri per la giacca, questo leggo dal Corriere della Sera. Insomma, la politica è animata da queste cose. Voglio andare sull'altro tema che trovate con ampio risalto sui giornali, e vale a dire quello sull'acqua. Sapete che il governo, come abbiamo sentito anche in GR24, ha blindato con la fiducia che verrà votata oggi il decreto Ronchi. È quello che apre alcune privatizzazioni anche sul settore dell'acqua. Non è che l'acqua ce la rubino, come in realtà per esempio titolano alcuni giornali: Liberazione, la pagheremo cara, la pagheremo tutta. Ma il fatto in prima pagina, adesso me lo son perso, ma qui c'è, eccolo qua: vogliono toglierci anche l'acqua. Insomma, così è un po' esagerato. Si vuole privatizzare non il bene acqua, ma la gestione. Si vuole aprire anche ai privati la gestione dell'acqua. Comunque, tutto ben spiegato sul Sole 24 Ore. Voto di fiducia sui servizi locali, perché è un decreto ben più ampio. Il governo blinda la liberalizzazione, scontro con l'opposizione sull'acqua. Si vuole sostanzialmente aprire l'affidamento anche a società miste, purché il socio privato sia selezionato con gara pubblica e una partecipazione non inferiore al 40%, che cosa? La gestione dell'acqua, la gestione del servizio acqua, dunque le fognature, gli acquedotti. Sulla Stampa ci sono anche varie interviste, i pro e i contro. In questo caso i pro sono Paolo Romano, amministratore delegato della società Acque Potabili: un privato può migliorare la gestione dell'acqua, ottimizzare al meglio la forza lavoro rendendola più efficiente. sufficiente. Certo, sui prezzi, dice Romano, è indiscutibile che se le società private faranno più investimenti per migliorare servizi e acquedotti, una parte di questa spesa dovrà essere recuperata con l'aumento delle tariffe. Ma poi, dice, si parla tanto di tariffe aumentate del 30%, ma si tratta di pochissimi soldi. In media una famiglia spende 253 euro l'anno per l'acqua, per la luce paga 100 euro solo a bimestre. Contraria invece Teresa Petrangolini di Cittadinanza Attiva, che dice in Francia per esempio si sta tornando al pubblico e in Italia gli esperimenti fatti a Latina e ad Agrigento sono stati tentativi già falliti. Trovate moltissimo sull'acqua, l'unità per lo scippo dell'acqua, il governo chiede la fiducia, il tema è comunque molto molto interessante, tocca a tutti noi. In primo piano. Pressing sullo scudo, le entrate inviano migliaia di lettere e l'apertura del Sole 24 Ore è un'indiscrezione molto interessante che trovate poi analizzata a pagina 3. Avvisi bonari pro scudo, lettere a chi ha inviato all'estero importi oltre i 50.000 euro. In arrivo, secondo Antonio Criscione e Mauro Meazza, c'è una nuova ondata di lettere dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti, diverse migliaia secondo le indiscrezioni. Sotto osservazione i movimenti finanziari verso l'estero non segnalati dai contribuenti nel quadro RV della dichiarazione dei redditi. Ovviamente c'è tutto sul monitoraggio dei capitali, potete leggere con maggiore dettaglio di ciò che si tratta all'interno a pagina 3 del Sole 24 Ore. Rimanendo però sull'economia, voglio segnalare la prima pagina dell'Unità. Oggi i giornali sfuggono come anguille. Eccolo qua, la prima pagina dell'Unità. Valentino, aiutaci tu. Valentino è Valentino Rossi, perché Rinaldo Gianola, che è il vice direttore dell'Unità, è andato a Gerno di Lesmo, frazione di Lesmo, peraltro a pochissimi chilometri da Arcore, dove risiede Berlusconi. I dipendenti della Yamaha, che rischiano di perdere il posto di lavoro, sono 67, il prossimo 8 gennaio, hanno scritto a Valentino Rossi. Insomma, l'uomo simbolo della Yamaha. Caro Valentino Rossi, siamo disperati, aiutaci a salvare il posto. C'è il racconto, insomma, della situazione economica legata anche alla Eutelia, quella diventata famosa un paio di giorni fa, qualche giorno fa, quando l'ex amministratore delegato ha fatto un'irruzione coi vigilantes. Notizia economica, se non altro per i soldi, ce l'ha solo il Corriere della Sera. Villa Certosa piace all'Emiro, è la residenza estiva di Berlusconi, quella delle foto anche, tanto per intenderci, pare che sia in vendita. Definitivamente, Berlusconi l'aveva detta, amareggiato, la vendo, ora pare ci sia la cifra, 450 milioni di euro, e sarebbero interessati la famiglia Al Nahyan, che regna su Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Tra l'altro Berlusconi andrà proprio lì in visita di Stato tra qualche giorno e quindi, insomma, pare che si parlerà anche di questo, almeno pare, secondo il Corriere della Sera, il responsabile che sta trattando l'affare, Claudio Giuntoli, è prudentissimo, no comment, per carità, non posso confermare né smentire, ma insomma 450 milioni sarebbe stata così valutata Villa Certosa. Ma signori e signore, o meglio signore e signori, la notizia economica del giorno la trovo da Michele Brambilla sulla Stampa in prima pagina. Non mi sono impazzito, ma sentite questa storia, riguarda Luca Casarini. Luca Casarini, sapete chi è? Beh, il No Global, forse diventato più famoso, quello contestatore, quello che insomma ha fatto anche qualche contestazione rumorosa, per usare un eufemismo. Ricordate Luca Casarini, il No Global? Adesso fa l'imprenditore. È una delle tante partite IVA del Nord-Est. Quando parla, scrive Michele Brambilla, Casarini parla come la Marcegaglia. Un'imposta l'IRAP che colpisce la produzione è un'imposta assurda. Quando parla delle banche, parla come Tremonti. L'accesso al credito dovrebbe essere agevolato. Quando parla del centralismo dello Stato, parla come Bossi. C'è una forte richiesta di autonomia da parte della nostra gente. Insomma, Luca Casarini, intervistato, ha aperto una partita IVA. Si rende conto che diranno che è passato dall'altra parte. Ma no, non è vero, dice Casarini. Io sono sempre stato dalla parte degli sfruttati e i nuovi sfruttati sono i piccoli imprenditori, gli artigiani. Per esempio, l'IRAP è una vergogna, per esempio, specie in periodo di crisi, viene tassata la produzione e non il reddito. E poi le banche. Ma sono i rischi di impresa, lei se ne rende conto? Ma io ho sempre pensato che i piccoli imprenditori erano vessati, dice Casalini. Sta pensando di passare alla Lega, per carità. Non crederà che la Lega tuteli le piccole imprese. E insomma, è un Casalini, come dire, nuovo? Rinnovato? Chi lo sa? Ci dobbiamo fermare qui, l'ultima segnalazione la voglio fare dal giornale, in prima pagina. Il giornale racconta la visita che Mario Balotelli, Super Mario Balotelli dell'Inter, ha fatto a un istituto, l'Istituto Don Gnocchi, a incontrare bambini che hanno disabilità motorie. E, il titolo però è abbastanza emblematico. Balotelli si confida coi bimbi, ha risposto a qualche domanda e sapete che ha detto a un bambino: io sono un tifoso del Milan. È un bambino che gli ha chiesto: ma scusa, perché giochi nell'Inter? Per quest'anno gioco nell'Inter. Questa è la risposta di Mario Balotelli. Vabbè, io se vuole venire al Milan, Mario Balotelli, porte apertissime, venga, venga.